la chitarra, e anche un filo alla voce. Parlo, bla bla bla. Oh oh oh oh. Prova, prova. Sembrava ieri e sono già passati 10 anni e pelle a pelle, tornare a Milano è tanta roba sempre, sempre. E ecco, oggi più che mai, in un momento in cui serve reciprocizzare, come sempre lo è, oggi più che mai, che sia il paradigma di una lotta estremamente degna e coerente, di un compagno anarchico degno del suo nome, tra uno Stato sovrano, disciplinare, garantista, forcaiolo, che attraverso le sue emanazioni politiche e giuridiche da sempre e come sempre al pretesto di prendere possesso e gestire la vita di un esistente, non solo di persone, di un esistente, e l'autodeterminato rifiuto ogni coercizione eteronoma che quello Stato garantisce al prezzo della propria vita, come tanti, come è stato per tanti, al prezzo della propria vita, una lotta politica e personale al prezzo della propria vita. Ecco che la lotta di Alfredo, e non soltanto, la lotta di Ricciardi, di Ritorto, di Farina, la lotta contro una distorsione psicofisica annichilente come ogni gabbia, non soltanto il carcere, ogni istituzione totale, non soltanto il regime del 41 bis, il regime dell'ergastolo e dell'ergastolo stativo, ma più in generale un regime detentivo, una gabbia, la proiezione delle mille gabbie che spesso ci portiamo dentro e non riusciamo a scardinare, e creano un terreno fertile a quelle gabbie. Ecco, la lotta di Alfredo non è una lotta legata all'anarchico, al 41 bis, non è una lotta di sproporzione della pena in un singolo caso, è una lotta per il superamento di un'istituzione, per il superamento del carcere, per il superamento di ogni gabbia, che abbia un confine, che abbia un filo spinato, che sia un allevamento, che sia uno stigma, che sia un pregiudizio. È la lotta per orizzonti lontani, e solo qualche mese fa è la lotta che è cominciata con queste parole. Voglio, per finire, essere molto chiaro su un punto. La teoria, se non è accompagnata dalla prassi, è merda o poco più. E permettetemi di dire con un minimo di orgoglio, permettetemi di dire che la mia vita, come la vita di ogni anarchico e di ogni anarchica degna di questo nome, è caratterizzata dal tentativo di far collimare la prassi e la teoria. La teoria alla prassi. Ai servi del potere dico una sola cosa: potete tenermi in galera tutta la vita, tutto il resto della mia vita, dirvi, non riuscirete a togliermi la coerenza e il rispetto di me stesso, non riuscirete a togliermi tantomeno il piacere e la voglia di combattervi. Alfredo, maggio 2022, per questo orizzonte, vecchia scuola, la vecchia maniera, questo è contratto hardcore. sente. Belle, mi alzi un po' la chitarra, non sento una fava. Mi senti? Tutti dal 41 bis! E nonostante i sintetici ridicoli, ma di questo non ci si sorprende. Ecco, ogni tanto una mezza sfiga in meno. Il nostro saluto complice solidale ad Agnese, a Massimo, a Juana, a Seco, a Rupert, a Sciascia. Nonostante tutto, ma questo era già in conto. Thank you. In cui ad esempio un prigioniero come Davide è da 26 anni in 2 metri per 3 senza una finestra, è da 26 anni nelle viscere di un inferno, è da 26 anni nell'impossibilità di toccare la pelle, è da 26 anni nella possibilità di avere sguardi di profondità, di orizzonte, è da 26 anni in un cubicolo in cui un'ora al giorno intravede uno spicchio di cielo tra mille grate. Ecco, nel privilegio che abbiamo di poter aprire le finestre ogni tanto, la loro lotta è la nostra lotta. Let's go! che ci chiama oggi più che mai. Sento fiori, sono sbocciati. Portano le mani giorno per giorno per tenere puliti i quartieri da quel certo tipo di feccia. E visto che siamo qua a Milano, in particolare in Ticinese, ovviamente il pensiero va ad Ax. Strada per strada. Strada per strada, quartiere per quartiere, lo sangue puliremo le camicie nere. Okay. momento la serenità si fa sentire e quindi anche l'arrivo al compimento delle cose. E sinceramente, nonostante una vita, come poche volte, andrei avanti ad oltranza stasera. Ecco. E quindi ecco, banalmente, in tutto ciò che si fa attraverso la costruzione, partendo dalla parola, e serve a creare, come sta facendo, battaglie molto più degne delle mie parole ad un microfono, aprirlo su un contesto sociale, penaliste forcaiolo, che non fa nessuna distinzione, ma aprirlo e aprirlo con il lancio dell'immaginario, ecco, è sempre lì che torniamo, all'accezione del quotidiano e alla voglia del cambiamento, ma di un cambiamento radicale, la politica e la rivoluzione. No, no, no, no, no, no. Mi riascolterei chi ha suonato prima, ma tanto. Ok, quel che sarà, sarà. Ecco, si diceva una volta semplicemente così, poi l'hanno detto anche loro, è soltanto l'inizio. Ok, questa è l'ultima per mille ragioni. domenica di maggio, giganti al cielo, carne viva tutto attorno, e noi sopravvissuti a cosa? Come gocce di sole nell'ultima di diversi, alle guardatela, alla guardatela, alla guardatela, su due e agli occhi del mondo. Resta! Il tempo, questo! È un tempo in cui cercare! È un tempo, questo! Che non sa niente! Quel tempo che ti apparteneva! E mi sembra che tutto sia perso, Mancini! Lui ti sembra che tutto sia perso, e Mancini! Resta un'abile resa! Restano silenzi, duri come pietre. Oggi mi sento come soffitto.